24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa, un saluto da Paola Nania. Oggi continuiamo a monitorare la situazione della nube di ceneri vulcaniche che dall'Islanda si sta spostando sul resto d'Europa. C'è da segnalare qualche disagio, chiusi gli aeroporti tedeschi, ma la situazione sembra tutto sommato sotto controllo. C'è poi la visita di Barack Obama in Europa, ieri l'incontro con David Cameron è stata l'occasione per parlare di G8 e Primavera Araba. Spazio anche all'economia con Christine Lagarde che ha ufficializzato la sua candidatura al Fondo Monetario Internazionale. E poi ambiente e sostenibilità di cui si sta discutendo in questi giorni a Bruxelles. E come dicevamo, partiamo proprio dalla nube di ceneri vulcaniche. Solo poche ore di chiusura per gli aeroporti tedeschi, dopo 3 giorni è terminata infatti l'eruzione del vulcano. Questa volta nei cieli ci è voluto poco rispetto allo scorso anno per tornare alla normalità. Il perché lo spiega il professor Vincenzo Ferrara dell'Enea al microfono di Anna Migliorati. Le ceneri sono salite molto più in alto, quindi la parte iniziale, grossa, è stata sparata nella stratosfera. Poi sono continuati i rilasci normali, quelli della bassa atmosfera, che sono quelli che hanno dato problemi al volo, perché il problema li danno a 5.000-6.000 metri di quota, di altezza. Gli aerei in stratosfera non viaggiano. Quindi si prevede anche che ci vorrà molto meno per tornare alla normalità. Certo, in atmosfera adesso, nella bassa atmosfera, quella che viaggia, è il pulviscolo molto sottile, cioè le polveri che normalmente noi in città vengono chiamati PM10, eccetera. Quelle sono polveri molto sottili, poi cascano giù con la pioggia normalmente cascano. Le polveri più grosse naturalmente sono cascate già giù, quelle in stratosfera viaggiano per conto loro, quindi diciamo che il problema adesso è lo smaltimento di quello che è rimasto. Qualche giorno sarà tutto a posto per gli aerei, poi per la pulizia vera dell'atmosfera magari ci metterà un po' di più, ma quello non è un problema. Impatto dunque minimo, almeno rispetto alla situazione disastrosa provocata, lo ricorderete, un anno fa da un altro vulcano islandese. Qualche disagio anche tra i VIP si è comunque registrato. Il Barcellona, la squadra di calcio del Barcellona, ha anticipato di 2 giorni la partenza per Londra in vista della finale di Champions League con il Manchester United. Così anche il presidente americano. A Londra Barack Obama ha incontrato il premier britannico David Cameron. So the president and I are agreed we will stand with those who work for freedom. E quella che sentite è proprio la voce di David Cameron. Stati Uniti e Gran Bretagna, ha detto Cameron, promuoveranno al G8 un programma di appoggio economico e politico alla Primavera Araba. Obama, dal canto suo, ha ribadito la sintonia, mai come adesso, ha detto, tra i due paesi. Ora la pagina economica con la corsa di Christine Lagarde alla direzione del Fondo Monetario Internazionale dopo l'uscita di scena di Strauss-Kahn. Qualche problema in vista per l'attuale ministro dell'economia francese. Da Parigi il corrispondente del Sole 24 Ore Marco Mussanè. La Lagarde, che appunto ha annunciato un'ora fa circa, ha ufficializzato la propria candidatura alla direzione generale del fondo, ha un problema legato al ruolo che ha avuto come ministro dell'economia nel 2008 nel chiudere il lungo contenzioso tra lo Stato francese e Bernard Tapie sull'annosa vicenda della vendita di Adidas. Le viene imputato di aver optato per un arbitrato extragiudiziale che avrebbe favorito Tapie. In realtà questa mattina lei ha ribadito di avere la coscienza totalmente tranquilla, di aver agito con senso dello Stato e nel rispetto delle leggi, e ha quindi annunciato che anche qualora il 10 giugno la Corte di Giustizia della Repubblica dovesse decidere di aprire un'inchiesta nei suoi confronti, lei confermerà la candidatura perché è assolutamente sicura di uscire indenne. Ora, come sempre, il focus sulle borse europee. La volata delle banche ha sospinto in alto i listini europei che così, dopo un avvio debole, hanno chiuso tutti in rialzo. Piazza Affari ha vantato la performance migliore proprio grazie al sostegno del settore creditizio. Il FTSE MIB ha registrato un progresso dell'1,13%. Intesa San Paolo ha guidato i rialzi con un balzo del 5%. nel suo terzo giorno dell'aumento di capitale da 5 miliardi. Sono andate bene anche le azioni di Fiat SPA, più 3,2%, all'indomani dell'annuncio che la partecipata del gruppo Chrysler ha rimborsato 7,6 miliardi di dollari di debiti ai governi americano e canadese. L'amministratore delegato Sergio Marchion ha inoltre annunciato che Fiat salirà dall'attuale 46% al 51% nel capitale dell'azienda americana nel quarto trimestre e ha confermato il progetto di fusione tra Fiat e Chrysler, sottolineando però che non è una questione immediata per il 2011. Si sono inoltre messe in evidenza anche le Prysmian, più 1,47%, premiate dopo il contratto da 175 milioni di dollari per lo sviluppo del collegamento elettrico terrestre e sottomarino tra New York City e il New Jersey. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Bruxelles si parla di ambiente e sostenibilità nella settimana green. Arrivare a Bruxelles è stato uno smacco. Non che da noi non si parli seriamente di sostenibilità, ma sono ambiti piuttosto ristretti. Il dibattito quotidiano sul tema non va oltre il fastidio per l'Ecopass di Milano. Qui l'aeroporto invece è tappezzato di pubblicità che vantano i pregi di auto ibride o dell'energia eolica. Sarà per la Green Week, la settimana verde dell'Unione Europea, ma ho l'impressione di no. Il commissario europeo all'ambiente Potocnik riceve i giornalisti davanti al mostro di plastica, opera di un artista che con i sacchetti ha costruito un enorme polipo, come quello che affligge i mari e le spiagge di tutto il mondo. Dobbiamo smetterla di dividere ambiente, trasporti, energia, salute, dice. Non sono territori segnati, si intersecano. Ecco perché organizziamo questi incontri. Bisogna mettere le persone insieme, pensare e imparare, decidere dove investire forze e denaro. L'obiettivo, spiegherà poi in una delle numerose conferenze della giornata, è stabilire non tanto regole ferree, ma una roadmap, un percorso di riferimento di buone pratiche europee. Ad aprire i lavori c'è anche Mercedes Bresso, che presiede la conferenza delle regioni europee. L'impegno a livello locale a me sembra più forte. Proprio perché è su base volontaria di quanto sia a livello degli stati dove c'è essenzialmente la paura di prendere impegni. E di questi piccoli, che non hanno aeroporti da tappezzare di pubblicità, per fortuna noi ne abbiamo molti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ogni anno in Europa una superficie equivalente a un'area più estesa di Berlino cede il passo all'espansione urbana e ad infrastrutture di trasporto. È quanto emerge da uno studio della Commissione europea. Una tendenza insostenibile e a rischio per noi e per l'ambiente. Tra le aree più impermeabilizzate del continente ci sono le province di due città emiliane, Piacenza e Parma. A Bruxelles Laura Bettini ne ha parlato con Nicola Filippi della Direzione Regionale Ambiente. L'incremento è veramente esponenziale, non solo di area ma anche in termini di struttura disordinata dell'incremento che come impatto aumenta la gravità del danno sulle funzionalità dei suoli. Ci sono ovviamente delle politiche nazionali che dovrebbero intervenire per bloccare questa deriva. Secondo voi l'Europa può o deve intervenire? La pianificazione territoriale non è di pertinenza di una direzione generale della Commissione, ma è in particolare in Italia delegata agli enti locali, quindi alle regioni e nel caso specifico della nostra regione sempre più per sussidiarietà si va verso il locale e c'è un'ampia regolamentazione già in applicazione di direttive europee che esiste, si tratta di avere le forze per applicarla bene. Ne parlavamo anche prima, mancano appena due giorni alla finale di Champions League prevista sabato a Londra. Le ceneri del vulcano islandese che rischiano di tener lontani da Londra i tifosi catalani. E poi lo scandalo extraconiugale che ha visto protagonista Ryan Giggs con una starlette inglese e che rischia di travolgere il gallese del Manchester United. Finora intorno a Barcellona-Manchester United si è parlato di tutto fuorché di calcio. Del resto Blaugrana e Red Devils ben si conoscono, se è vero che appena due anni fa a Roma si giocarono la Coppa dalle grandi orecchie. Ebbe la meglio il Barça con la zampata di Eto'o e il colpo di testa di Messi. stessi. Lezione che Ferguson non ha dimenticato. Parola d'ordine per Sir Alex è rivincita, ma anche sangue freddo, perché sarà una sfida da vincere prima con la testa che con le gambe. Staremo a vedere. Per ora e fino al fischio d'inizio i protagonisti saranno loro, i bookmakers, che danno a 3,5 Messi come miglior giocatore della partita, appena a 21 proprio Giggs. Alla pulce, ora il compito di confermarsi gigante. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed era questa la nostra ultima notizia. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.